Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentornati. Storytelling, ovvero l'arte della narrazione, l'arte di raccontare storie. Sono Luca Tremolada e racconteremo un po' di storie insieme a Cristina Tagliabue. Buongiorno. Buongiorno, cari. Che è tornata oggi carica di personaggi e di storie, e in particolare è un momento per fare un po' il punto su un fenomeno che è emerso con il libro Storytelling di Christian Salmon l'anno scorso, se non sbaglio, e che oggettivamente continua a influenzare, condizionare un po' tutto quello che è i media, non solo i media, ma l'industria dei media. Sì, Salinger diceva non raccontare mai niente a nessuno, invece oggigiorno sembra che non si può dire niente se non attraverso un racconto, a una mediazione, a una comunicazione, no? Cioè, dalla politica, che conosciamo benissimo, il Yes Weekend di Obama, Yes Weekend, oppure anche la pubblicità insomma ci ha raccontato una marea di storie, di fandonie, e anche i manager, perché no, adesso è da un po' di anni che va molto di moda raccontare i numeri dei bilanci con aneddoti, che è tremendo, anche perché poi giustamente sotto l'aneddoto c'è un numero, io lo posso anche mascherare. Public speaking lo chiamano, no? Alla fine comunque è l'arte di parlare in pubblico e in qualche modo di intortare. Esatto, cioè, quindi ci sono vari aspetti. Da un lato è bello raccontare storie, perché no? Ce la raccontiamo su. Dall'altro invece può anche essere un modo, e lo vediamo molto in politica e anche in Italia, di, se non nascondere, avere delle scorciatoie. Ma 824-0024... tutti gli l'appello è a tutti gli storytelling, com'è che si dice? Storytellers, plurale, che vogliono chiamare e che vogliono raccontarci una storia in maniera un po' diversa dal normale. Se invece volete scriverci un SMS 349-238-6666, perché oggi andiamo a analizzare una branca dello storytelling, quella diciamo più artistica, più musicale. Sì, un po' insomma, alla fine ho cercato su Wikipedia, no? Cosa volesse dire raccontare, quali fossero le forme del racconto. È una cosa un po' da ridere, sembra che ogni racconto debba avere per forza una lunghezza precisa. Per esempio, non lo so, il poema epico 200.000 parole, il racconto invece quello normale 2.000 ne deve avere. E non deve essere... La novella, dunque la novella 17.500 parole per almeno, la precisione. Almeno. E poi niente, sì, in effetti oggi entriamo in realtà in un racconto un po' particolare, che è il racconto della canzone, o quantomeno diciamo più che della canzone, della musica, di quelli che cantano o fanno le canzoni. Qui con noi nel senso che è qui con noi in carne ed ossa, Marco Mucic, buongiorno. Buongiorno a tutti. E noi abbiamo Marco Mucic dei ragazzi della Prateria, per cui adesso andiamo a capire chi è Marco Mucic, chi sono i ragazzi della Prateria e perché sei venuto qui a trovarci. I ragazzi della Prateria sono Carlo Zoratti e Marco Mucic. Si incontrano nel 2005 a Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo Benetton. Un anno dopo si esibiscono con i primi VJ set live seguiti da importanti gruppi internazionali. Nel 2008 Lorenzo Giovanotti li invita a collaborare alla produzione visual del suo concerto per il Safari Tour. Il progetto è impegnativo e li costringe a sacrificare il tempo che avrebbero dedicato a correre allegri nei campi. Da qui il nome, Ragazzi della Prateria. Girano videoclip musicali fino ad arrivare all'ultimo progetto, Pronti al peggio, la prima web TV italiana di Vitaminic che racconta le più belle storie di musica. Se chiedete loro cosa gli piace, rispondono: svegliarsi presto la mattina. Padre, che non ci crede nessuno che la cosa che ti piace è svegliarsi presto la mattina. Io mi sveglio prestissimo. Tipo? 7:30-8. Sarebbe prestissimo questo. No, ma infatti, no, ma si commenta da sé. Ma il tema è che voi vi siete inventato Fossi Figo, che non è un'esclamazione, neanche un auspicio, ma è il nome di una rubrica del vostro sito, che tra l'altro noi pubblichiamo sul Twitter di Novalab24. Ok, il nostro sito è appunto una cosa che abbiamo iniziato a tre, con Andrea Girolami e Carlo. Carlo è l'altro ragazzo della Prateria. Delle Praterie. Diciamo che siamo più abituati a raccontare le storie attraverso la lente di una telecamera piuttosto che attraverso un microfono. Quindi. Perché Fossi Figo, se ho capito bene, sono proprio le storie riprese di cantanti non famosi ma neanche sconosciuti. Diciamo che è il racconto di quello che succede quando si spengono le luci del palco, quando finisce il concerto, quando insomma il disco è già uscito e ha già fatto il percorso che deve fare. Esatto, noi abbiamo girato 3 microdocumentari parlando di questi musicisti che sono a cavallo tra la cioè insomma sono famosi in Italia, però in un paese come il nostro per vivere devono fare anche un altro lavoro. Quindi Borut, un nostro amico DJ che ha un progetto musicale che si chiama Scuola Furano, per poter vivere, per poter pagare l'affitto, lavora e possiede una tabaccheria, un'edicola. Quindi lui la mattina presto, veramente presto, alle 6 del mattino, si alza con suo padre, tira sulla saracinesca e insomma parte così. Vende le sigarette. Vende le sigarette, vende le riviste, vende i libri. Ecco, diciamo che il racconto di Borut, io ho una ignoranza sul mondo musicale mostruosa, nel senso che arrivo a... mi sono fermato ai Pink Floyd, pensa a te, cioè non vado oltre, è tremendo. Una vergogna. Però Borut chi è un... non è uno sconosciuto, ma la cosa che ci interessa è il racconto di Borut, cioè non siamo abituati a sentire Borut dai dischi e dalle date dei concerti e da quello che produce nei media. A questo punto raccontiamo un'altra storia di Borut. Sì, perché sembra praticamente è un VJ importantissimo che tutti conoscono come appunto fichissimo, immagino, no? Un appartamento di 400 metri quadri, no? Musica go go, casse pompatissime, tutta la giornata a far niente con belle ragazze. Invece no, il ragazzo... Che poi giornata a far niente con belle ragazze è discutibile. Dobbiamo capire, però. Esatto. E invece no, si alza la mattina e va in tabaccheria e lavora con la famiglia. Questo è uno storytelling, diciamo, al contrario, no? Partiamo in questa puntata in realtà raccontando come non si racconta normalmente la gente, no? Perché il patinatissimo mondo della musica, alla fine, che tutti siamo abituati a vedere come iperbrillante, in realtà questi ragazzi in un sito internet con una telecamera e così un'idea, un po' di buona volontà, alla fine l'hanno trasformato in una narrazione veramente molto particolare e di valore. Ma voglio dire, potrei anche citare altri progetti, non so, in realtà in questo sito ci sono anche gli iPod con le cuffie messi addosso a dei cantanti famosi che devono riconoscere le canzoni di altri colleghi. Beh, non le riconoscono, cioè no. La maggior parte dei cantanti, non so, ci vuoi raccontare un po' magari altri progetti che avete fatto? Infatti i concerti nelle case, per i esempio. I concerti nelle case, i concerti nelle piazze, l'iPod, questo... gioco ad indovinare insomma i pezzi, sono tutti modi per raccontare la musica attraverso altri punti di vista, e quindi ricollegandosi sempre a questo storytelling ci premo un modo interessante di andare oltre un po' lo stereotipo e anche quello che siamo abituati a vedere sulla musica o a leggere. E quindi non lo so, parlando sempre di Fossi Figo, è stato molto bello girare sull'autobus insieme a Simone degli Ex Otago. Lui è... Simone? Simone degli Ex Otago, okay. Un altro gruppo italiano che... Tu li conoscevi, Cristina? No, io devo ammettere... Okay. No, loro andiamo non avanti. Conosco. Li conoscerete. lui fa l'autista di autobus e si sveglia alle 5 del mattino, si mette in giacca e cravatta e sale sulla corriera e fa tutto questo percorso sulle montagne con le vecchiette, ecco, ragazzine. Gli ascoltatori di Radio 24, che sono cattivissimi giustamente, dicono sì, ma si guadagna a far raccontare così le storie di questi cantanti? No, non si guadagna. E lo dice passandosi, lo dico, la mano sulla fronte. Sì, il sudore della fatica che ci è costato, del grande sforzo che ci ha dato grandi soddisfazioni, che però per ora pronti al peggio è in vacanza, diciamo. Vabbè, Marco, dici il tuo vero mestiere adesso a questo punto. Videomaker, regista. No, vabbè, ci siamo spostati su altre cose, però è stato difficile poterlo continuare con... È stato difficile trovare qualcuno disposto ad investire su un progetto soprattutto web. Sì, che tra l'altro sono diciamo gli esperimenti, se vuoi, più anche interessanti, ma anche più di frontiera, per cui si fanno anche fatica a trovare fonti di finanziamento, perché non si capisce quale sia il valore di raccontare un retroscena, se vuoi scomodo, anche di un cantante che magari potrebbe, è meglio raccontarlo tutte luce paillette. E proprio... Ma è stato molto coraggioso anche da parte dei musicisti stessi volersi rivelare in questo modo. Esatto, un musicista che si è voluto rilevare, è Jukka Reverberi, o Reverberi, che è la voce dei Giardini di Miró. Buongiorno. Buongiorno. Adesso noi facciamo sentire brevemente la tua storia. Jukka Reverberi è la voce dei Giardini di Miró. Una band nata a Cavriago, piccolo comune a pochi minuti da Reggio Emilia. Il gruppo è molto noto nella scena underground e poco illuminato dai riflettori dello Star System. Il loro primo disco ufficiale, Rise and Fall, è stato registrato interamente con tecniche analogiche a Firenze. L'ultima fatica si chiama Il Fuoco. Il nome Giardini di Miró è stato rubato al famoso parco di Barcellona dedicato a Miró, dove narrano le leggende qualcuno del gruppo sia stato concepito. Sarà per questo che nelle loro foto non sorridono quasi mai. E dire che il sindaco onorario di Cavriago è dal 1917 Vladimir Lenin. Rieccoci ritornati. La sua storia è incredibile. Io posso darle del tu? Sì, volentieri. Ha senso ed è quanto... Diciamo è importante raccontare la vita di un artista a 360 gradi. Sinceramente non lo so, ma credo che sia abbastanza, in modo particolare in Italia, alla fine è interessante, perché dimostra che in realtà per essere artisti in Italia, insomma, uso questo termine, artista, mi fa piacere ogni tanto utilizzarlo, è comunque difficile, non è una cosa semplice. Ci sono tante strade per farlo, quella che ho scelto io, come tante altre persone, di fare sacrifici e condividere questa parte della vita, cioè quella artistica, con quella normale che hanno tantissimi milioni di altre persone in Italia, cioè andando tutte le mattine a lavorare. Ecco, Jukka, sono Cristina Tagliabue. Senti, ma ciao, ci puoi raccontare il tuo vero mestiere, visto che insomma abbiamo visto, no, questi video molto, molto carini, ma insomma è più bello se lo racconti tu. Ma io lavoro per il comune di Reggio Emilia e mi occupo della gestione dei campi nomadi comunali, ovvero nel comune di Reggio Emilia ci sono tre aree nomadi dove sono ospitate le famiglie nomadi, sono strutture fisse, sono campi fissi dove i nomadi abitano nelle loro roulotte o campine e case mobili. Poi c'è una quarta area che invece è adibita soltanto per ospitare durante l'inverno, la pausa invernale, i giostrai, e niente, io giro queste aree, controllo lo stato delle presenze, faccio monitoraggio sociale, tutta un'altra serie di attività, e il contatto con le famiglie nomadi è quotidiano, tutti i giorni sono là con la mia macchinina, giro in questi quattro campi, e questa è la mia settimana lavorativa. Insomma, poi ci sono tante variabili, ma questo è. Ecco, Jukka, ma senti, i Giardini Miró sono un gruppo davvero famoso, insomma, io sono stata dei vostri concerti. Tutti, insomma, vi immaginavamo prima di vedere questi video come appunto dei musicisti full time. Tu non credi che sia una diminuzione per un artista il fatto di essere raccontato così nella quotidianità? Ma guarda, sai, c'è la dimensione epica. È abbastanza da stereotipo dei musicisti che sono quella roba lì, di alberghi, feste, televisioni rotte, televisioni buttate giù dalle finestre, cose del genere, oppure sì, comunque l'artista arrivato. Io purtroppo non sono un artista arrivato, nel senso che me la devo guadagnare tutti i giorni, devo far convivere questa passione gigantesca che ho e che non riesco a smettere, e così tutti gli altri cinque ragazzi che suonano con me, insomma. E noi ce la dobbiamo battagliare tutti i giorni, quindi perché non raccontarla? Aggiunge forse qualcosa a quello che stiamo cercando di fare quello che abbiamo cercato di fare in questi 12 anni. Non c'è un sospetto reality dietro a l'operazione, cioè l'idea di raccontarsi nudi e crudi, insomma? Sì, sicuramente può esserci, ormai appunto non c'è più il privato così, ma in questo caso il privato, cioè, secondo me la cosa anche abbastanza importante che fa più che altro è quella di dire: guardate, in Italia quelli che fanno i musicisti alternativi, nel senso non fanno i musicisti alternativi, quelli che fanno i musicisti e provano a dire le cose in modo differente, comunque devono fare devono trovare un compromesso, che è quello di andare a fare un lavoro normalissimo come quello che possono fare tutti quanti, e in più girarsi tutti i weekend l'Italia per andare a suonare. Quindi secondo me non dico che sia una dichiarazione quasi politica a un certo punto, però tenuto conto che dalle altre parti del mondo funziona alle volte in modo differente, secondo me il voyeurismo può passare in secondo piano, nel senso che convive anche un altro aspetto, convivono anche altri aspetti all'interno di quel tipo di esperienze lì, che a me è divertito molto anche fare. Ma tu ti sei ritrovato nel video che hanno girato i ragazzi della prateria? Sì, mi è piaciuto soprattutto il tocco, insomma, gentile che hanno utilizzato nel far vedere i ragazzi dei campi, insomma. Quindi, poteva essere invece molto più pacchiana come roba, invece secondo me hanno avuto un bel tatto, sono stati bravi. Ecco, quindi Mucic, questo vuol dire che non siete stati dei storyteller? Cioè, siamo stati dei storyteller, no, assolutamente. Non avete però creato un racconto di aneddoti, non avete voluto andare sopra le righe su un racconto di questo tipo, che tra l'altro poteva anche essere facile, perché si prestava il cantante famoso che quando non è sul palco è impegnato nel sociale. Questa è una storia che chiaramente ha un eroe, ha una trama, ha una sfida, che è la sfida, quello di una sfida sociale importante, per cui insomma c'erano tutti gli ingredienti della storia. Certo, è di sicuro più difficile farlo in questo modo piuttosto che farlo in modo pacchiano. Rispetto al discorso che facevamo prima del reality, appunto il nostro progetto è un progetto editoriale, quindi noi instauriamo un dialogo con le persone che andiamo a raccontare, intervistare, a incontrare, quindi c'è anche uno scambio, c'è la voglia di conoscerli, c'è la voglia di capire che cosa vivono ogni giorno, è appunto la loro storia, quindi non è prenderli, metterli in una stanza, riprenderli 24 ore e poi fare un montaggio che è un sunto di quello che è successo. Noi abbiamo cercato di andare oltre questa cosa, che è stata anche la cosa interessante, la cosa bella poi. Tra l'altro la cosa che mi domando è se questo tipo di narrazione si applichi poi a determinate persone o possa essere estesa anche ai personaggi del cosiddetto Star System. Questa è una sfida che volete affrontare, che vi interessa anche, perché poi io potrei anche non essere interessato a conoscere quello che tra l'altro conosciamo tutti, perché ormai un divo della musica viene raccontato in mille salse, su mille media, sappiamo tutto, anche troppo forse. Beh, ci sono stati un po' di tentativi, lo stesso Jovanotti quando è stato ripreso da noi in un dialogo così informale al bar ci ha detto che gli piaceva molto il nostro progetto perché entravamo proprio in un momento in cui lo storytelling stava prendendo piede, stava diventando una cosa su cui mettere l'accento, quindi lui l'aveva già captata questa cosa ed è una persona molto attenta a questo genere di cose. Il mondo della musica, da come si sta muovendo oggi, con un videoclip identico fatto in serie, è entrato un po' in crisi, quindi forse noi abbiamo toccato un po' un tasto interessante. Ma tra l'altro, insomma, lo storytelling prevede anche ormai corsi, scuole. Lo storytelling è un'arte non soltanto per la scrittura ma anche per il cinema. Basta citare la scuola Holden di Baricco, dove i corsi di storytelling costano fior di quattrini, nel senso che se non sei tra i primi 10 privilegiati e meritevoli che sono arrivati primi all'esame, che pagano comunque 4.300 euro l'anno, devi pagare 7.700 euro l'anno in due comode rate, ma comunque insomma che non è poco, quindi raccontare storie frutta anche, ma forse a coloro che insegnano questo genere di arte. Un bel business. Ma noi abbiamo in collegamento anche una storyteller autentica, un'attrice e storyteller, Angela Saieva. Buongiorno. Buongiorno. Noi non ti daremo un soldo, lo sai, per raccontarci la tua biografia. Per raccontarci la tua biografia, esatto. Ne avrò una ricompensa nei cieli. Esatto, beh, che non è poco, dai, su via. Però non ci raccontare subito la tua biografia nei panni di una storyteller, perché la cosa che sentirete subito dopo l'interruzione sarà la biografia di la bio, la scheda di Angela, raccontata come un attore deve raccontarla sostanzialmente. Ma proprio un attore no. Però un... Com'è che... cantastorie, dai, un po' di più. È un... Ecco, cantastorie è un po' di più di un attore? Perché? No, è un po' di più quello che succederà, nel senso che... vabbè, questo poi dalle biografie non si dedurrà, quindi te lo posso dire. Sì? Sia io sia Paola, la mia socia della compagnia di storytelling, raccontami una storia, veniamo dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, quindi okay, attrice con tutti i santi crismi. E sostanzialmente lo storytelling, per come lo intendiamo noi, per come l'abbiamo trovato anche all'estero, in realtà non prevede una scrittura e un imparare a memoria il testo e poi passare all'oralità, ma prevede l'oralità come era quando raccontavi Cenerentola, come quando racconti Cenerentola a un bambino, cioè sai che Cenerentola deve perdere la scarpetta, però poi le parole con che usi vengono in quel momento lì, dipende dal pubblico, dipende dalle persone che ti stanno guardando, dalle facce che fanno, dagli occhi che hanno, per cui in questo è completamente diverso da quello che fa un attore. Nova Lab 24. Bentornati da Luca Tremolada, parliamo, anzi raccontiamo storie, oggi puntata dedicata allo storytelling. Siamo in collegamento con Angela Saieva, buongiorno, che adesso ci darà un esempio di racconto, raccontando appunto la sua storia. Noi facciamo come siamo abituati in questa trasmissione, che io a questo punto lancio la scheda, no? E tu quando senti scheda parti, okay? Ok? Allora, Cristina, aiutami. Un 2-3 scheda? No, un 2-3 scheda fa un po' 2-3 stella. Facciamo, e adesso sentiamo la storia della storyteller Angela Saieva nella scheda. Via. C'era una volta, e una volta non c'era. C'era una volta, e chissà poi se c'era. C'era una volta, almeno una volta c'era. Un angelo, anzi una angela, innamorata di tutti c'era una volta del mondo. E come in tutte le storie che si rispettino, un giorno accadde una magia. Angela volò in un antro magico, una caverna bellissima, piena di tesori, il teatro di documenti. E lì, mentre era impegnata nel suo lavoro di attrice a rappresentare la mandragola, conobbe un demonietto, Paola. E come in tutte le storie, gli opposti si attraggono. E Angela e Paola si accorsero di avere in comune la cosa più importante di tutte, un sogno. Il sogno di raccontare qualcosa in un modo diverso, di staccarsi dai testi imparati a memoria del teatro e far sognare le persone con le proprie parole. E allora insieme partirono per un viaggio, andarono in Inghilterra a studiare la magica arte dello storytelling, cioè l'antica arte di cantastorie, e al ritorno affrontarono la prima grande prova. Fondarono Raccontami una storia, la prima compagnia d'Italia interamente dedicata allo storytelling. E poi combatterono per il loro progetto contro la mancanza di fondi, la perplessità di critica e teatri nei confronti di questa nuova idea. E come le fate, le streghe delle favole inventarono trucchi, pozioni per far entrare il pubblico nel loro mondo magico. Ed esso si moltiplicò come per magia. E dopo 5 anni di spettacoli, incontri interattivi, laboratori, festival internazionali, finalmente il grande incantesimo. La prima edizione romana del Festival Internazionale di Storytelling, Raccontami una storia. E però. Ma quindi sostanzialmente, bravissima, innanzitutto bravissima. Ma quindi sostanzialmente invece, se tu avessi voluto raccontare questa storia favoleggiante con elementi fantasy e tutto quanto, in maniera come si racconta coi fatti, avresti detto: sono Angela Saieva, vai, quanti anni? Ho 38 anni, ma ne dimostro 26. No, già adesso è cambiato, dovrei essere più secca. Ho 38 anni, ho studiato recitazione e soprattutto, ed è l'argomento di cui andiamo a parlare subito, sono curatrice di un festival sullo storytelling, vero Cristina? Sì, è il festival che si è appena concluso a Roma, insomma, di cui molti hanno parlato. Infatti ero curiosa di capire com'è andato, chi sono stati questi storyteller internazionali che vi hanno partecipato. Guarda, avevo paura che i miei 38 anni alla fine del festival si sarebbero trasformati in 98 per la fatica, perché veramente siamo state noi due, cioè Angela Saieva, che sono io, e Paola Balbi, che è la mia socia, ad avere l'idea del festival. E poi abbiamo cercato sponsor in tutti i modi possibili e immaginabili, ma ovviamente era un'idea nuova e nessuno ci ha voluto sostenere quantomeno finanziariamente, e quindi veramente con il supporto. E questo è normale, questo è molto normale. Però adesso abbiamo 5 miliardi di fotografie, articoli di giornali, quindi se questa volta non ci danno i soldi sono veramente dei gran puzzoni. e soprattutto, guarda, volontari prima di tutto sono stati proprio gli artisti internazionali che sono venuti a battezzare praticamente questo primo festival di storytelling vero e proprio in Italia, dal Galles, dalla Svezia, dall'Ungheria, dal Canada, dalla Svizzera, e soprattutto si sono mossi, e questo è raro nell'ambiente artistico, proprio i grandi, cioè il direttore del più grande festival d'Europa, che è quello del Galles, Beyond the Border, David Ambrose, la stessa cosa è successa dalla Svezia con lo svedese Mats Rehman, e sono venuti a raccontare storie sostanzialmente, ma come si faceva una volta intorno al fuoco. Ecco, ma com'è che, esatto, era quello che volevo capire, che sono un po' terra terra, cioè com'è che funziona, cioè ci si mette e inizia uno a parlare e comincia a dire qualcosa, no, non lo so, dimmi. Guarda, funziona sostanzialmente che non c'è bisogno di costumi, non c'è bisogno di scenografia, c'è bisogno di una storia, c'è bisogno di un c'era una volta, che poi può essere una fiaba, e la cosa che più mi ha colpito è che la serata dello svedese che io traducevo simultaneamente raccontando insomma insieme a lui, lui ha raccontato due fiabe che la sua tata gli raccontava quando aveva 7-9 anni, e il pubblico era tutto un pubblico adulto e l'hanno adorato, nonostante in Italia insomma non è che l'inglese sia, per quanto la lingua più diffusa, quella meglio parlata e meglio compresa. E ah, quindi poi... non traducevi dallo svedese, perché insomma sembrava veramente... Non ci crederai, ma ho tradotto anche dallo svedese, perché lui ad un certo punto mi ha detto, guarda, io improvviserò tipo una serie di piatti in svedese, tu mettici quello che ti pare, poi una serie di cose sulle pietre in svedese, io mi sono inventata le peggio cose, ma il pubblico ha gradito, quindi in qualche modo ha funzionato. Quindi c'è, è un'arma potentissima di persuasione e di dissimulazione lo storytelling, cioè se lui parlava di ricette e tu insomma la intortavi in un qualche modo, è uno strumento mica da ridere. Guarda, è un po' l'altra faccia della medaglia, cioè è vero che le storie hanno un fortissimo potere curativo, per cui vengono usate in diversi ambiti, vengono usate negli ospedali, vengono usate nelle prigioni, cioè vengono usate veramente poi, senza voler cadere nello specifico, ma veramente come supporto. Però è anche vero che spesso sono state, cioè spesso, per fortuna non spesso, ma insomma che a volte sono state usate anche sì come strumento demagogico, come strumento di persuasione, e in malo modo purtroppo, ma questo è vero per qualunque cosa. Ecco, però sì, Angela, sì. Ti interrompo perché insomma so che esiste la Federazione Internazionale dello Storytelling, avete fatto questo salotto, raccontami una storia, mi domandavo, ma anche le bugie hanno alla fine un potere curativo? Poi ci sono le bugie bianche, no? Certo. Ma guarda, quello che noi cerchiamo di fare, questo si fa veramente in tutta Europa, cioè anche in America, insomma è in America poi tra l'altro che è nato il movimento della rinascita, della riscoperta, del raccontare storie, e quello che tra l'altro si continua a fare invece in quei paesi come l'Africa, in cui la storia ha ancora il suo potere primigenio, che è di trasmettere cultura, di trasmettere tradizioni. Beh, in tutti questi paesi si fanno degli incontri aperti al pubblico in cui chiunque vuole raccontare. Noi abbiamo cominciato a ottobre del 2005 nel salotto di casa mia, piccolissimo, con 15 persone, e noi abbiamo raccontato storie di paura perché era Halloween, e poi chi voleva poteva raccontare un aneddoto, poteva raccontare una leggenda che si ricordava, una fiaba che gli raccontavano, e la cosa bella appunto è che non devi essere un attore, anzi a volte gli attori sono un po' troppo equipaggiati per raccontare storie, cioè sono più artificiosi. È veramente la voglia di raccontare storie e di condividere. E immagino che nessuno guardasse la televisione. No, e la cosa più bella che mi ha detto un salotto in estate, l'estate dopo che avevamo cominciato, un napoletano, quindi grande affabulatore, mi ha detto guarda che bello, che veramente è come quando non c'era la televisione, insomma era un uomo di una certa età. E noi apposta, Angela, apposta abbiamo Luca De Gennaro che è direttore dei programmi di NTV, guarda un po', buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, non serve la televisione, lei ha, oltre che essere direttore dei programmi, anche scritto un libro sullo storytelling. Allora la domanda un po' sciocca che mi viene è quella, insomma, non serve la televisione però per raccontare la storia, le storie, serve la radio, la carta. Sì, hai ragione, infatti che vorrei che mi dessi del tu perché mi sento più a mio agio comunque. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, io in realtà mi occupo di musica, non sono il direttore dei programmi, che quello è un'altra persona, io mi occupo proprio della musica, ed è dalla musica che parte l'idea di Storytellers. Storytellers è un programma, diciamo, è un format, per dirla in maniera tecnica, di VH1, che è un canale televisivo sorella di MTV negli Stati Uniti, che noi abbiamo portato anche in Italia. Dici bene quando dici non serve la televisione per raccontare le storie, serve un mondo di comunicazione che può raccontare quello che c'è dietro alla musica, che è quello che noi abbiamo voluto fare. Storytellers è un programma, è un'idea che nasce una decina di anni fa ormai negli Stati Uniti per iniziativa di uno dei più grandi critici musicali americani, che si chiama Bill Flanagan, che è anche direttore editoriale di VH1, il quale a un certo punto scrive un libro molto bello che si chiama Written in Your Soul, scritto nell'anima, un libro che tra l'altro fu anche tradotto all'epoca e pubblicato in Italia da Arcana, in cui c'erano i grandi della musica pop rock americana che raccontavano le loro canzoni, o meglio raccontavano quello che c'era dietro alla storia delle loro canzoni, lo storytelling vero di chi appunto fa il cantautore, diciamo il songwriter, e quindi interviste a Neil Young, Bruce Springsteen, Brian Wilson, eccetera. Da lì nasce l'idea di Storytellers, programma televisivo in cui i musicisti raccontano quello che c'è dietro la loro canzone e poi le eseguono anche in un'atmosfera molto intima, diciamo, personale, per pochi. Anni dopo abbiamo portato questo format in Italia. Perché? Perché io ho sempre avuto, lavorando con un pubblico giovane, che è quello che segue MTV, lo scrupolo e la preoccupazione che coloro i quali guardano MTV, cioè soprattutto i ragazzi molto giovani, non percepiscono più il lavoro che c'è dietro la musica, cioè pensano che la canzone sia una roba così che nasce da sola. In realtà dietro la creazione artistica... Ha funzionato questo esperimento? Guarda, mi sembra di sì, perché tra l'altro questa cosa è nata, non è nata con la televisione, cioè è nata come un'iniziativa di MTV e di un partner che adesso non esiste più, che era Progetto Italia di Telecom, una struttura di Telecom che si occupava appunto di divulgare cultura in qualche modo. Adesso c'è Fondazione Telecom, che comunque dovrebbe fare più o meno la stessa cosa. Scusami, sono Cristina Tagliabue, ti interrompo perché sono un po' informata. Va bene, va bene, te. Cioè, nel senso che ho perso un po' i contatti con i nostri partner di allora. Diciamo che con Progetto Italia e MTV abbiamo organizzato una serie di serate in luoghi non convenzionali della musica pop, quindi abbiamo cominciato con l'Aula Magna dell'Università di Bologna, ecco, poi siamo andati... Luca, abbiamo, perché le storie non hanno tempo, ma in radio invece ci sono dei tempi stretti. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Non ci sono dubbi, sulla Luna c'è davvero l'acqua. Uno strumento a bordo della sonda indiana Chandrayaan 1 ha rilevato la presenza di particelle di H2O sulle rocce lunari. La scoperta apre nuove prospettive per future missioni spaziali. Secondo i ricercatori, infatti, da un metro cubo di roccia lunare potrebbe essere estratto un litro d'acqua. I PC portatili saranno ancora più veloci e intelligenti. Nel corso della seconda giornata dell'Intel Developer Forum, la chipmaker californiana ha presentato la nuova serie di processori per notebooks Core i7. Basati sulla tecnologia Intel Nealem, i microchips offrono prestazioni senza precedenti, soprattutto per le applicazioni video e grafica e per i videogames. Vita dura per i web permalosi. Se gestite un sito e non vi piacciono commenti e critiche, presto li riceverete vostro malgrado. Grazie a SideWiki, una nuova funzionalità di Google Toolbar, chiunque potrà annotare commenti su qualsiasi argomento e pagina web. Nessuna voce potrà essere censurata, poiché SideWiki non è legata ad alcun sito, ma basata su un server indipendente. Giocatori di tutto il mondo, gioite! Nintendo ha annunciato una riduzione di prezzo del 20% sulla console Wii. Da ottobre il costo della piattaforma scenderà di circa 40 euro. La mossa, che risponde ai ribassi di Microsoft Xbox e Sony PlayStation, mira ad incentivare gli acquisti in vista del periodo natalizio. Attenti bambini a dove andate. Il satellite e il genitore controlla ogni vostra mossa. È stato lanciato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna un orologio GPS che permetterà ai genitori di seguire in tempo reale i movimenti dei figli su Google Maps. Siamo in chiusura del nostro storytelling e abbiamo in collegamento Luca De Gennaro, direttore della musica di MTV. Eh sì, è proprio lui, e tra l'altro stavo sfogliando questo libro che ha scritto insieme a Paola Omaugeri, Storytellers, perché la musica che si racconta, perché è stata un po' mitica questa cosa degli storytellers. Io ho assistito a una puntata al Conservatorio di Milano, veramente bellissimo, no? I cantanti che suonano una canzone, due, poi parlano con la Maugeri, raccontano e spiegano dove è nato quel testo, no? Delle curiosità tutte live. Ecco, la mia curiosità è, ma insomma, lo riferite oppure no? In questo momento a livello italiano non lo stiamo facendo. L'ultima serata, l'ultimo episodio, diciamo, l'abbiamo girato più o meno un anno fa alla Sala Borsa di Genova con Max Pezzali. Dei primi 10 è stato poi realizzato il libro che hai in mano, che è uscito un paio d'anni fa per Tea. 10 incontri con altrettanti cantanti che appunto sono Ligabue, Jovanotti, Giorgia Negramaro e tanti altri, Fossati, eccetera. Per il momento si è fermato a livello italiano, ma sta per ripartire a livello internazionale, nel senso che in America stiamo per cominciare a girare dei nuovi episodi di Storytellers. Il primo sarà quello con i Foo Fighters tra poche settimane, e quindi riparte come brand internazionale. Mi auguro veramente di poterlo rifare in Italia, perché è stata una cosa che veramente è piaciuta a tutti, quindi... Grazie Luca De Gennaro, speriamo quindi che tu lo rifaccia. Io intanto ringrazio anche Marco Mucic che si sta distraendo. Grazie a voi. Buongiorno, noi ci diamo appuntamento invece per domani alle 4 e Cristina tornerà giovedì prossimo. Esatto. Arrivederci. Arrivederci.